Buongiorno a tutte e a tutti. Ci ritroviamo per questo appuntamento in diretta Facebook che, come è accaduto tutte le altre volte, andrà in onda in diretta su diverse pagine Facebook. Stiamo andando in onda sulla pagina Facebook mia personale, su quella mia pubblica, su quella di 37.2, sulla pagina di Medicina Democratica di Costituzione Bene Comuni e anche sulla nuova pagina dell'Osservatorio Coronavirus. Sono tante quindi le pagine che trasmettono in diretta questa nostra trasmissione e io vi chiedo, vi invito come al solito a condividere questa diretta, anche perché parleremo di un argomento unico che è quello dei vaccini, cercando di rispondere indirettamente alle tantissime domande che mi sono arrivate e che ci sono arrivate sulle nostre pagine Facebook e anche a 37.2 che andrà in onda domani. Una trasmissione quindi su un tema unico. Anche una trasmissione molto difficile. Prenderemo le vostre domande, dico subito che molte domande rimarranno con dei punti interrogativi, perché la scienza in questo momento non è in grado di dare una risposta a tutto. E dimenticavo, andrà in onda questa diretta anche su Ponti di Memoria. Semplicemente un avviso. Domani mattina ci sarà una trasmissione molto molto particolare a 37.2. Segnaleremo un caso che ha dell'incredibile. In Italia mancavano i tamponi questa primavera, ma centinaia di migliaia, forse milioni di tamponi dall'Italia partivano destinati agli Stati Uniti. Parleremo di questo attraverso la voce di un giornalista che ha fatto un'inchiesta. Abbiamo invitato tutti i protagonisti di quella vicenda. Domani mattina a 37.2 alle 10.37, un'inchiesta che credo sia unica nel suo genere. Ma veniamo alla situazione attuale della pandemia. Al di là di quello che si poteva pensare, che in tanti purtroppo dicevano, questa seconda ondata non solo c'è, ma è un'ondata molto pesante, un'ondata molto molto forte. Io mi limito a citare semplicemente un paio di numeri. Al 30 giugno in Italia c'erano stati circa 34.000 decessi ufficialmente riconosciuti come morti per coronavirus. Al 13 gennaio, cioè ad oggi, siamo a 80.000 decessi. Cosa significa? Che questa ondata sta provocando più decessi di quanto avvenuto nei mesi primaverili. Il rischio forte, fortissimo, che noi stiamo vivendo è quello di assuefarci, di accettare il fatto che ogni giorno vengano comunicati centinaia e centinaia di morti. È qualcosa che non possiamo accettare, non può e non deve diventare la nostra normalità. Lo dico perché altrimenti rischiamo anche noi di non tener conto della drammaticità della situazione, quasi ci si abitua. In questo quadro, in questo momento, si sta parlando tanto, tantissimo della vicenda dei vaccini. Prima di tutto io voglio dare alcuni numeri per spiegare qual è la situazione come disponibilità di vaccini, perché siamo in una situazione che è molto molto lontana dalla possibilità di avere a disposizione di tutta la popolazione italiana in tempi brevi i vaccini. La situazione attuale è questa. La Pfizer, che è quella che distribuisce Il vaccino che per primo è stato riconosciuto dall'FDA negli Stati Uniti e dall'EMA in Europa fornisce all'Italia circa 470.000 dosi alla settimana. Moderna, che ha messo sul mercato il secondo vaccino che è appena stato approvato, distribuisce circa 100.000 dosi ogni settimana all'Italia. Questo significa che ci saranno circa 600.000 dosi a disposizione. Siccome ogni cittadino deve sottoporsi a due dosi, questo vuol dire che si può arrivare a una vaccinazione completa. Ovviamente si deve considerare nel tempo perché passano 3 settimane tra una vaccinazione e l'altra per la Pfizer e 4 settimane per Moderna. Ma come numero totale si può stimare 300.000 persone vaccinate completamente alla settimana. Questo vuol dire che nei primi mesi, nei primi 3 mesi di quest'anno, si arriverà, se va bene, a 4-5 milioni di persone che saranno vaccinate. Una cifra molto, molto lontana dai 13 milioni che sono stati pubblicizzati anche dalle autorità governative. Se andiamo avanti con questo sistema, è chiaro che anche alla fine dell'anno non vi sarà un numero sufficiente di vaccini per la popolazione italiana. A questo punto interviene allora AstraZeneca, che è la terza azienda dalla quale l'Italia ha acquistato 40 milioni di dosi, che vuol dire il necessario per vaccinare 20 milioni di persone. Ma il vaccino AstraZeneca non è ancora stato approvato. Voi sapete che aveva dato dei risultati sul piano scientifico difficili da spiegare, e cioè con una dose mezza aveva un'efficacia del 94%, mentre con le due dosi previste ufficialmente aveva un'efficacia poco superiore al 60%. Hanno dovuto fare un pezzo del trial di ricerca e quindi, se ci sarà l'autorizzazione, sarà nelle prossime settimane o forse addirittura nei prossimi mesi. Quindi noi in questo momento non siamo in grado di dire che entro il 2021 tutta la popolazione italiana potrà aver avuto l'offerta del vaccino. E questa è la prima cosa da dire. E quindi dobbiamo stare molto attenti a pensare che il vaccino risolva tutto, sia perché potrà essere vaccinato un numero limitato di persone, sia perché sul vaccino tante cose ancora non le conosciamo. E allora dico subito che cosa ancora non si sa su questi vaccini, tante cose non si sanno, ma alcune cose, perché sono quelle che mi continuano a essere chieste con insistenza. Allora, prima questione, non si sa se questo vaccino può essere utilizzato, questo intendo Pfizer e Moderna, ambedue, se possono essere utilizzate per la donna in gravidanza e durante l'allattamento. Ognuno vi può dire quello che vuole. Io quello che vi dico è che sul piano scientifico dei dati precisi di questo tipo non ci sono, perché nei trial di sperimentazione non sono state coinvolte donne in gravidanza. L'unica cosa che è avvenuta è che durante i mesi della sperimentazione alcune donne sono rimaste incinte, ma parliamo di alcune decine, quindi un numero assolutamente non adeguato per poter fornire una risposta precisa all'interrogativo se il vaccino può essere preso anche quando una è in gravidanza o durante l'allattamento. Altra questione su cui non ci sono dati. Uno dei due vaccini è stato sperimentato su un numero limitato di persone anche tra i 16 e i 18 anni. L'altro è stato sperimentato solo su persone superiori ai 18 anni. Quindi noi abbiamo pochissimi dati tra i 16 e i 18 anni, non abbiamo dati sotto i 16 anni. È per questo che il vaccino non può essere somministrato ai bambini e ai ragazzi. E ad oggi non sono in previsione dei trial di ricerca per vedere l'effetto, l'efficacia, gli eventuali rischi relativamente ai minori di 16 anni. Altra questione estremamente complicata e discussa. La domanda è questa: cosa deve fare una persona che ha già avuto il Covid e quindi ha prodotto gli anticorpi? Deve sottoporsi o no al vaccino? Anche su questo io non sono purtroppo in grado di dare una risposta univoca, ma se vogliamo essere onesti fino in fondo, non lo è la scienza. Nei bugiardini, cioè nei foglietti illustrativi, si dice semplicemente e nelle indicazioni che vengono date che si suggerisce alle persone che già hanno avuto il Covid di non farsi vaccinare in questa prima, in questo primo momento, in questa prima ondata di vaccinazioni. Non è chiaro se questo suggerimento è dovuto alla consapevolezza della scarsità, scusate, dei vaccini e quindi alla necessità di lasciare il posto a coloro che ancora non sono stati colpiti dal virus, o se questa motivazione ha a che fare con qualche dato clinico. Dati clinici però non mi risulta che ci siano. Quello che però sta avvenendo è che nella stragrande maggioranza delle strutture sanitarie, alle persone che già hanno fatto il Covid e quindi hanno prodotto gli anticorpi, viene suggerito comunque di vaccinarsi. Io mi limito a dire che su questo non c'è una risposta definitiva e quindi purtroppo la singola persona è messa di fronte, posta di fronte a dover scegliere. Se ha la possibilità di vaccinarsi, a dover scegliere senza avere tutti gli elementi per poter scegliere in scienza e coscienza. Io posso dare come consiglio personale un consiglio molto semplice. Se una persona ha fatto recentemente il Covid, avrà ancora una produzione sufficiente di anticorpi e quindi forse non c'è la necessità di correre a fare il vaccino adesso quando ancora non si hanno queste informazioni. Ma è un parere come ce ne possono essere tanti altri. E ancora, arriviamo a un tema che è in discussione adesso, ma che sarà al centro, temo, della discussione nei prossimi mesi. Voi sapete che la Gran Bretagna, di fronte alla virulenza del virus e ai numeri di diffusione del virus, ha assunto una decisione, e cioè di vaccinare il maggior numero di persone possibili con la prima dose e di rimandare la seconda dose oltre i tempi indicati dalle aziende produttrici. Io su questo mi sento di dire il mio parere. E non sono solo, sono molti ricercatori che credono come me che questa strategia non abbia alcun senso in termini di sanità pubblica. Qualche rappresentante del governo ha accennato che anche in Italia si potrebbe seguire questa strategia. Io sono assolutamente contrario. Perché una sola vaccinazione, secondo i dati che si possono comprendere dalla poca documentazione messa a disposizione dalle aziende, il livello di protezione supera di poco il 50%. C'è un'efficacia, scusate, non il livello di protezione, l'efficacia è del 50% o poco superiore. Allora, siccome sappiamo, nel senso che lo sa la storia umana, nel senso che lo sa l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lo ripete da decenni, che una persona che viene vaccinata abbassa la soglia di attenzione, cioè ritiene di poter prestare meno attenzione al distanziamento, all'uso della mascherina, noi rischiamo di avere centinaia di migliaia, milioni di persone vaccinate solo una volta, che in qualche modo si ritengono protetti, mentre la protezione è solo al 50%. Secondo, noi non sappiamo la seconda vaccinazione, il richiamo, se viene fatto più tardi, quale livello di efficacia ha. Anzi, in alcune delle pubblicazioni delle aziende c'è scritto che se il richiamo viene fatto oltre le 3 o 4 settimane, a seconda dei quali due vaccini si utilizzano, oltre perde una parte di efficacia. Quindi noi rischiamo di avere persone con una sola vaccinazione che hanno dove il vaccino agisce solo al 50%. E poi rischiamo, quando ci sarà la seconda vaccinazione protratta nel tempo, di non sapere quanta protezione, quanta efficacia avrà questo vaccino. Quindi io penso che le due dosi debbano essere fatte alle distanze assolutamente stabilite ufficialmente. Non si possono fare delle sperimentazioni su milioni e milioni di persone. E allora si apre un altro dibattito, e cioè sappiamo poco su questi vaccini, è vero. Stanno uscendo su alcune riviste scientifiche degli articoli di fior fior di ricercatori a livello mondiale che rivendicano il diritto al fatto che le aziende farmaceutiche mettano in comune col mondo scientifico tutti i risultati della loro ricerca e le modalità con cui queste ricerche sono state realizzate. Questo non viene fatto e sono uscite alcune pubblicazioni, di cui io credo che sia corretto anche dirlo, che affermano che il livello di, per esempio sul British Medical Journal, il livello di efficacia di questi vaccini è inferiore a quello dichiarato. Rimaniamo anche qua su delle opinioni, perché poco si sa. E allora c'è da chiedersi come mai sappiamo così poco. E qua c'è un punto centrale a cui voglio dedicare qualche minuto prima di rispondere alle vostre domande. Qui c'è un problema centrale, che è questo. Tutti i risultati della ricerca sono unicamente nelle mani delle aziende, le quali hanno privatizzato il brevetto, nonostante il brevetto sia stato ottenuto con delle ricerche finanziate da miliardi, parlo di miliardi di dollari, da parte degli stati pubblici, e cioè dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Faccio un esempio: la BioNTech, che è il partner tedesco della Pfizer, ha ricevuto una sovvenzione pubblica di 375 milioni di euro dalla Germania. Ciò nonostante si rifiuta di rinunciare almeno a una parte del brevetto, si rifiuta a mettere in comune le conoscenze scientifiche. Moderna, il cui vaccino è stato sviluppato quasi interamente col denaro dei contribuenti, si è impegnata pubblicamente a non far valere i suoi diritti durante la pandemia, ma questo impegno generico non si capisce dove vada a parare, perché per ora si sta comportando come tutte le altre. AstraZeneca, che ha lavorato anche lei con tantissimi finanziamenti pubblici, ha dichiarato che terrà un prezzo basso, ma un prezzo basso solo fino all'estate. Allora noi non possiamo accontentarci di tutto questo, anche perché se la ricerca e la proprietà del brevetto fosse pubblica, noi oggi avremmo molte più informazioni, molti più elementi di sicurezza, avremmo la possibilità di andare a verificare come la ricerca è stata condotta. E aggiungo una cosa: siccome è evidente, è ormai certo, che la stragrande maggioranza dei cittadini e delle cittadine del pianeta non avranno la vaccinazione entro il 2021 e molti non l'avranno neanche negli anni successivi, in un mondo globalizzato dove la gente si può spostare, è evidente che nessuno si può sentire protetto, anche perché se miliardi di persone potranno essere colpite comunque dal virus, è facile che questo produca nel tempo una mutazione ulteriore e magari una mutazione che non può essere controllata da questi vaccini. Quindi, per chi non ascolta parole di giustizia o di etica, sappia che se non riusciamo a pensare a una tutela per tutto il mondo, non siamo tutelati e protetti neanche noi. La storia in questo campo è lunga, ricordiamo la lotta di Mandela ai tempi dell'AIDS per avere i farmaci che erano coperti da brevetto, e quando Mandela decise di fare la produzione nazionale, fu denunciata al Tribunale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio dalle aziende farmaceutiche. Ricordiamo anche che Salk, quando produsse il vaccino per l'antipolio, lo tenne come bene comune, dicendo: potresti brevettare il sole? Perché dico tutto questo? Perché è inaccettabile l'attuale situazione, che prevede anche oltretutto la segretezza. E purtroppo sono in grado di confermarvi, come avevo accennato qualche mese fa, che è vero, l'Unione Europea ha firmato un accordo con le aziende produttrici dei vaccini, nel quale si stabilisce che sarà l'Unione Europea e saranno gli stati a dover pagare eventuali risarcimenti per effetti non previsti come conseguenze del vaccino. Quindi prima finanziamo la ricerca, poi riacquistiamo il prodotto di quella stessa ricerca e poi garantiamo l'impunità economica a chi mette sul mercato questi vaccini. C'è stata una coalizione di 50 paesi guidati da Sudafrica e l'India che avevano chiesto che ci fosse una moratoria sul vaccino in tempi di pandemia. Si sono opposti gli Stati Uniti, si è opposta la Svizzera e si è opposta l'Unione Europea. Una moratoria avrebbe voluto dire che il brevetto non era più proprietà solo unicamente di quelle aziende, il che avrebbe significato, tra l'altro, la possibilità di aumentare di molto, di tantissimo, la produzione, perché a questo punto ogni azienda produce il suo vaccino e solo lei lo produce, o solo quelle aziende che la Pfizer, che Moderna, che AstraZeneca autorizzeranno a produrlo. Se no dobbiamo aspettare che vada ad aumentare il numero delle proprie aziende, delle proprie fabbriche per poter produrre ulteriore vaccino. E di mezzo, ovviamente, ci andiamo tutti quanti. Ecco, io dico questo anche perché vi invito a firmare la petizione a questo link no profit on pandemic.eu slash it no profit on pandemic.eu slash it. Dobbiamo raccogliere 1 milione di firme, 180.000 in Italia, 1 milione in Europa, e a quel punto la Commissione europea è obbligata a proporre una modifica della gestione degli accordi sui brevetti in Europa entro 3 mesi. E questa proposta dovrà essere discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo. Nel frattempo, dobbiamo pensare subito anche a mobilitarci, perché comunque nell'Organizzazione Mondiale del Commercio la proposta dell'India e Sudafrica di una moratoria andrà in discussione entro il mese di marzo e lì si tratterà di fare pressione perché i governi sostengano questo tipo di proposta. Oggi abbiamo formato il Comitato Nazionale con l'adesione di tantissime associazioni, di tantissime organizzazioni dei lavoratori, sindacati, eccetera. Io vi invito tutti quanti a sostenere questa campagna. Andiamo a leggere le vostre domande. Negli Stati Uniti intenderanno vaccinate oltre 1 milione di persone. Si ha una prima evidenza di efficacia? No, è ancora troppo presto. Voi sapete che l'efficacia scatta una settimana dopo la seconda vaccinazione. Però permettetemi, io cerco di dare i dati oggettivi, vi chiedo veramente, per favore, condividete questo video, fatelo girare, chiedete ai vostri amici di condividerlo perché dobbiamo dare tante informazioni e non riesco a rispondere a tutti. Allora, qua si parla di efficacia. Io dico l'efficacia si può misurare solo una settimana dopo la seconda vaccinazione. Ma di quale efficacia parliamo? Anche questo è importante sapere. E cioè, quello che hanno detto le aziende è che nelle persone che sono infettate, la possibilità di evolvere verso la fase avanzata della malattia per chi ha avuto il vaccino è minore del 94% rispetto a coloro che non hanno avuto il vaccino. Ma per ora nessuno sa se e quanto il vaccino è protettivo rispetto al rischio di infettarsi, cioè è stata misurata l'efficacia rispetto al rischio di evoluzione della malattia. È stato misurato, cioè, la capacità del vaccino di bloccare l'evoluzione nelle persone positive verso la fase grave della malattia. Si ritiene che il vaccino sia in grado anche di evitare l'infezione, ma su questo da nessuna parte c'è scritto che questo è certo. Anche nelle indicazioni dell'AIFA si dice che si ritiene, che si pensa. E questo ovviamente si potrà sapere solo 3 mesi, proprio perché la sperimentazione è stata fatta in un periodo estremamente limitato di tempo, cioè solo in 3 mesi. Così come l'altra domanda che viene sempre fatta è: quanto durerà l'immunità prodotta dal vaccino? Quando è stato dato l'avvio alla campagna vaccinale, si riteneva, o perlomeno le aziende erano in grado di dire sicuramente 3 mesi. Oggi dicono sicuramente 6 mesi, probabilmente molto di più. Noi non siamo in grado, nessuno è in grado di dire quanto durerà perché, ripeto, i trial si sono realizzati in uno spazio di tempo estremamente limitato. Allora, ecco, qui ho già risposto alla questione di chi è stato vaccinato. Io sono un OSS e lavoro a domicilio. Voglio pagare per fare il vaccino. Cosa devo fare? Allora, salvo sorprese, lo dico perché ho avuto una segnalazione oggi ancora riservatissima e devo capire se quanto mi è stato segnalato è vero o no. Ma ad oggi non è possibile assolutamente acquistare il vaccino a pagamento. Il vaccino può essere fatto solo dalle strutture pubbliche e si è chiamati in base alla fascia di popolazione. Prima di tutto vengono chiamati i medici, gli operatori sanitari, poi vengono chiamate le persone più anziane che sono ricoverate all'interno delle RSA e poi via via le altre persone sopra i 60 anni. Ma per ora non possiamo, la situazione è questa. Quindi nessuno, scusate, nessuno può assolutamente andare ad acquistare il vaccino. Non c'è un mercato privato del vaccino. Andiamo avanti. Chi è allergico ai medicinali si può vaccinare? Allora, come voi sapete, le persone che hanno delle allergie sono le persone che per ora devono stare più attenti. Per ora c'è solo un consiglio generale a chi ha le allergie di cercare per ora, diciamo, di evitare di vaccinarsi. Purtroppo non ci sono indicazioni precise relativamente a allergie da medicinali. Si dice genericamente che non c'è un'interferenza, ma questo sono tutti dati non ancora precisi. Allora, anche qui, cosa pensa delle vaccinazioni dei soggetti immunodepressi? Non c'è a priori un'esclusione degli immunodepressi dalla possibilità di vaccinarsi, però guardate che in questo caso io consiglio di parlarne a lungo col proprio medico perché ovviamente bisogna capire anche da cosa deriva e qual è la causa dell'immunodepressione. Mi chiedo come fare per avere maggiori certezze. Non è possibile. Per avere maggiori certezze dovremmo avere un'industria farmaceutica pubblica, sovranazionale, europea. E dovremmo avere i brevetti come proprietà pubblica e con tutte le ricerche nelle mani della scienza pubblica. E questo ad oggi sapete che non c'è. Per questo vi dico di firmare la petizione no profit on pandemic.eu/it. Allora, ho già detto che non si sa esattamente per quanto durano gli anticorpi, si ritiene che durino 6 mesi. Come minimo e probabilmente anche molto di più. È stata pubblicata una ricerca ultimamente su quanto durano gli anticorpi nelle persone che hanno avuto il Covid. In media dicono che dopo 8 mesi sono stati trovati ancora una quantità di anticorpi sufficienti per garantire la protezione. Sto parlando di chi ha sviluppato gli anticorpi in seguito all'infezione naturale, cioè ad aver avuto il virus, però anche questa è una media. Ci sono persone che a 8 mesi hanno un livello molto basso di anticorpi e altre invece che hanno gli anticorpi più alti anche molto più tempo in là. Quando saranno vaccinati i medici di base? Ecco, questa è una questione importante, nel senso che il governo dice coinvolgiamo i medici di base nelle vaccinazioni e i medici di base, la prima cosa che hanno risposto è benissimo, però prima di tutto dovete vaccinare noi. È ovvio che deve essere vaccinato il medico che poi vaccina gli altri. Ed è altrettanto ovvio che necessaria una precisa organizzazione nello studio medico, perché non si possono avere assembramenti, code di persone che vengono per essere vaccinate con persone che vengono per essere curate per altre patologie, con, tra queste magari persone che sono Covid positivi. Quindi affidare la vaccinazione ai medici di base significa, prima di tutto, un'organizzazione logistica e secondo, aver vaccinato i medici di base. Aggiungo che per precauzione si suggerisce di tenere una distanza di almeno 2 settimane tra la vaccinazione antinfluenzale e la vaccinazione per il Covid. Poi, Vittorio, ma con tutte le premesse che hai fatto, ci si dovrebbe sentire sicuri vaccinandosi? Io sono molto combattuta e non so come pensare. Io nelle premesse ho spiegato quali sono i dati, cioè che cosa conosciamo, cosa sappiamo e cosa sono dei punti di domanda. Il dato che noi oggi sappiamo è che i trial di ricerca che avevano come endpoint, cioè il punto conclusivo di verifica della ricerca, dicono che coloro che prendono il vaccino su 100 persone che rischiano di avere un'evoluzione verso una fase avanzata, coloro che non hanno preso il vaccino evolvono in 100 e coloro che invece hanno preso il vaccino evolvono in 6, cioè che c'è una protezione del 94% verso l'evoluzione. E questo è un dato importante. È un dato importante soprattutto in una situazione dove abbiamo 80.000 già decessi, in una situazione dove la Lombardia, se la confrontiamo con le nazioni al mondo, è al primo posto per numero di decessi su 100.000 abitanti. Quando ho scritto il libro Senza respiro, che vi consiglio di leggerlo perché ci aiuta a capire cosa succede adesso, i diritti d'autore vanno all'ospedale Sacco, quindi non ci guadagno io. Quando ho scritto il libro eravamo a 167 decessi da coronavirus in Lombardia su 100.000 abitanti. Noi adesso siamo arrivati a 250 decessi su 100.000 abitanti. Quindi in una situazione del genere, se l'efficacia del vaccino limita l'evoluzione verso la fase avanzata, è una cosa importante. Nello stesso momento in cui affermo questo, dico alcune informazioni ancora non le abbiamo. Per cui, per esempio, dico non è che una persona quando è vaccinata ambedue le volte, cioè ha concluso il ciclo vaccinale, può fregarsene di prendere le precauzioni, di usare la mascherina e di tenere il distanziamento, perché ipotizziamo che ci sia una protezione anche dall'infezione e dal contagio, ma non abbiamo la certezza al 100% perché non era questo l'endpoint, cioè il punto finale che si andava a misurare col trial di ricerca che ha realizzato Big Pharma. Ecco, quindi io vi do questo tipo di informazioni. Ad oggi non sembra che siano stati segnalati numerosi casi di gravi effetti collaterali. C'è stata qualche segnalazione che deve essere analizzata sul piano scientifico. Però è indubbio che siamo di fronte a una cosa che avviene per la prima volta nella storia umana. C'è un livello di sperimentazione così breve con un percorso così accelerato, anche se è vero che disponiamo di tecnologie nuove. Dopodiché è chiaro che io penso che il vaccino sia uno strumento assolutamente fondamentale. Devo dire, oggi non è l'unico per i numeri che ho dato, cioè perché ho spiegato che non tutti potranno essere vaccinati in tempi brevi. Non potrà essere vaccinata tutta l'umanità, quindi questo problema è destinato a rimanere e anche per i punti di domanda che abbiamo. Mi spiace non poter dare delle garanzie su tutto. Io immagino che la risposta, per esempio, cosa deve fare una persona che ha già avuto il coronavirus, che ha sviluppato gli anticorpi, potrà essere data con un po' più di certezza nel giro di qualche mese, non nel giro di tempi lunghissimi. Immagino anche che la risposta con certezza rispetto alle donne in gravidanza e all'allattamento tra qualche mese potrà essere data. Immagino che tra qualche mese si potrà anche sapere se effettivamente i vaccini hanno un alto livello anche di protezione dal contrarre l'infezione. Ma quello che non si è saputo durante i trial sperimentali si verrà a sapere in questi primi mesi. Ecco, io mi fermo qua. Spero di aver dato delle informazioni utili. Vi invito a sostenere questa petizione. Lo dico brutalmente, questa non sarà l'ultima pandemia con la quale noi dovremo fare i conti. Vediamo di non trovarci un'altra volta in queste situazioni. Vediamo di arrivare alla prossima pandemia con un'azienda farmaceutica pubblica europea in grado di fare delle ricerche, dei trial alla luce del sole, di rendere pubblico i risultati e di evitare livelli di segretezza, oltre che di dover pagare 2 o 3 volte gli stessi vaccini. Questo è l'impegno soprattutto che noi oggi dobbiamo prenderci. Dopodiché è indubbio che in tante situazioni oggi ci sono delle scelte che devono essere presi dalla singola persona sapendo che non dispone di tutte le informazioni e sapendo che noi medici non siamo in grado di dare tutte le risposte che voi chiedete e che dovrebbero essere fornite, ma non abbiamo gli elementi per darli. Questo non toglie nulla all'importanza della vaccinazione e al fatto che con una documentazione presentata dalle aziende e sancita dall'EMA e dall'FDA di un'efficacia del 94% contro l'evoluzione verso la fase avanzata, questa sia una notizia sicuramente positiva. Io vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e ancora una volta vi invito a condividere questa diretta e ad ascoltare cosa diciamo e cosa avverrà domani mattina a 37.2. A Radio Popolare, chi non la può ascoltare domani mattina o sta in una regione dove non la può ascoltare, scarichi domani sera il podcast perché l'inchiesta che presentiamo è veramente un'inchiesta purtroppo molto molto pesante. Arrivederci e buona serata a tutti.